infelice, perché se ancora si poteva capire all'inizio del secolo la legge del 1912 che in epoca di emigrazione ancora massiccia dall'Italia cercava di utilizzare criteri come quello appunto del ius sanguinis per tenere come cittadini italiani tutti quelli che se ne andavano via, è assolutamente anacronistica la legge del 92 che non solo ribadisce quella scelta e quel criterio, ma addirittura lo peggiora, peggiorando alcuni presupposti temporali per i cittadini extracomunitari. Ebbene, quando sembrava appunto, grazie a quella fortunata coincidenza di avere un deputato di centrodestra, uno di centrosinistra, firmatari dello stesso disegno di legge, e il dibattito in Parlamento non era, all'inizio non fu becero, ci furono i fatti di Rosarno, non so se vi ricordate, in Calabria. I fatti di Rosarno, anziché accelerare ciò che razionalmente si imponeva, l'approvazione di quel disegno di legge, furono utilizzati per dire di questo per ora non se ne parla. Ora, noi corriamo il rischio di ripetere esattamente ciò che accadde nel 2010, siamo nella fine 2017, questa legislatura avrà 4 mesi di vita più o meno, si mettono 5 voti di fiducia sulla legge elettorale e invece si rinvia la discussione in Senato e la messa all'ordine del giorno di questo disegno di legge approvato insieme ad altre proposte con testo unificato dalla Camera dei Deputati, e c'è da sperare che quell'ultima battuta che ha fatto il Presidente del Consiglio qualche settimana fa, in cui prospettava la possibilità di riprendere, di rimettere in calendario questo disegno di legge, possa diventare realtà. Ora, credo che sia abbastanza normale che in momenti di grandi flussi migratori emergano contrapposizioni fra noi e loro. Qualche volta ovviamente queste contrapposizioni sono puramente emotive, disancorate completamente dalla realtà, possono essere comprese in chi ha fatto domanda per avere un servizio, per esempio l'assegnazione di una casa, e magari teme che l'arrivo di altri che non fanno parte di noi, che siamo cittadini di questo Stato e partiamo da questa comunità, possa diventare concorrente per quel servizio. Però questo può comprendersi in chi, per motivi di grande bisogno e al tempo stesso di grande disinformazione e di ignoranza, teme concorrenza sulla distribuzione dei beni economici o dei beni giuridici. Francamente non si può davvero concepire come una classe politica, classe dirigente, sia di sinistra, di centro, di destra, possa utilizzare le paure irrazionali delle persone anche per negare a bambini o a giovani che vivono in Italia, in questo paese, da tanti anni, che hanno superato cicli scolastici, come prevede il disegno di legge, che sono figli di genitori che hanno quei presupposti particolari che sono richiesti dal disegno di legge e quindi che hanno tutti gli elementi per un'acquisizione per ius soli o per ius culture, e di fronte a questo la risposta non se ne parla proprio, è una risposta arrogante. Ma quel che è più grave è una risposta che fa leva sulla paura irrazionale delle persone per continuare a far danno, perché non c'è nessun sistema capace di integrare le persone che stanno qui di quanto sia la pienezza della cittadinanza. Ora, sulla cittadinanza ovviamente si evocano cose diverse, no? Cittadinanza come appartenenza, noi e gli altri, cittadinanza come partecipazione. Ma io credo che, perlomeno in un ambito così qualificato come questo, dovremmo impostare il discorso non tanto su noi e gli altri e i diritti degli altri, ma io lo imposterei proprio su noi. Ma noi chi vogliamo essere? Noi chi siamo? Cioè, nel momento in cui affrontiamo il problema della cittadinanza, che cos'è, a che serve? Inizialmente, dopo la Rivoluzione francese, era un concetto inclusivo che cercava di, nel concetto di cittadinanza, rendere uguali i cittadini nei diritti. La cittadinanza oggi, paradossalmente, nel momento in cui la sovranità nazionale è in crisi sotto tutti i profili, la cittadinanza diventa elemento di esclusione. Esclusione dall'appartenenza, ma anche esclusione dalla partecipazione. Allora il problema, e qui chiudo subito dando la parola ai relatori, noi cittadini democratici di uno Stato costituzionale democratico all'interno di un'Europa che si vuole spazio di diritti, di libertà, di giustizia, non diventiamo diversi nel momento in cui utilizziamo la cittadinanza per escludere, ma soprattutto quando vogliamo escludere persone che di fatto già fanno parte della nostra comunità, perché stanno qui, lavorano, pagano le tasse, fanno gli imprenditori, contribuiscono, in una situazione poi paradossale, visto che stiamo parlando insieme in questi periodi di questa vicenda e della legge elettorale. Noi abbiamo, credo che siamo l'unico paese che ha questo incredibile paradosso di avere una chiusura quasi totale rispetto pure a convenzioni europee e a direttive che dicono di consentire agli stranieri legalmente residenti di partecipare, di avere diritti politici per le circoscrizioni, e a livello comunale noi diciamo no, non abbiamo attuato neanche queste disposizioni europee. Al tempo stesso, in un rigurgito di nazionalismo insensato, qualche decennio fa abbiamo dato il massimo forse dei diritti del cittadino, la possibilità di votare a livello nazionale a persone che con il nostro paese, con la vita della nostra comunità, non hanno più nulla, assolutamente nulla, perché la legge sulla cittadinanza dei figli, dei nipoti di italiani è talmente larga che consente di votare a gente che non sa l'italiano, è lontanissima da decenni dalla situazione italiana, non sa nulla di ciò che qui succede, con il risultato che alcuni partiti politici o alcune coalizioni fanno conto su questo gruzzoletto dei deputati e dei senatori eletti nelle circoscrizioni estere per operazioni, come dire, non proprio trasparenti e non proprio legali. Ora, se noi riuscissimo con le nostre modeste forze a portare qualche elemento di razionalità in questo dibattito così confuso, così irrazionale, avremmo assolto a quello che è un nostro compito, un nostro dovere. La parola ad Antonello Cervo. Grazie per l'invito, e dobbiamo ringraziarli gli elettori della circoscrizione estero, perché se non fosse stato per loro nel 2008 sarebbero andate diversamente, nel 2006 sarebbero andate diversamente le elezioni politiche. Però sono d'accordo con quello che ha detto il consigliere poi, e lo evidenzierò, proverò ad evidenziarlo anche nella mia relazione. Permettetemi innanzitutto di manifestare una difficoltà che ho a parlare qui oggi, terzo se non quarto in cotanto segno, quindi se sbaglio mi correggerete. Difficoltà a cui si aggiunge l'ultimo che ha detto così l'abbiamo fatto Papa. È un buon inizio allora. Difficoltà a cui si aggiunge una confusione, diciamo così, anche che deriva dal seguire il dibattito pubblico e politico sui temi in materia di ius soli. Se voi andate sul sito internet istituzionale del Partito Democratico, noterete come il programma elettorale del Partito Democratico del 2013 sia stato tolto dalla pagina istituzionale del Partito Democratico. Però io a suo tempo lo lessi e rimasi molto colpito del fatto che uno degli elementi caratterizzanti, come si dice adesso, l'offerta politica del Partito Democratico era questa, e cioè una delle prime leggi che approveremo anche con la fiducia. Questo è logico in un sistema maggioritario in cui un partito che si candida a governare vuole imporre anche in qualche modo il suo indirizzo politico al futuro Parlamento. Una delle leggi che per prime voteremo e che approveremo anche con la fiducia è quella, appunto, la legge sulla cittadinanza che modifica, appunto, lo ius soli. E invece oggi, appunto, come è stato detto, vengono poste non 5, 8 fiducie in 14 giorni alla legge elettorale, che, come è noto, come sanno anche gli studenti del primo anno di giurisprudenza, è materia in cui c'è una riserva parlamentare ex articolo 72, ultimo comma. Per cui il governo per oltre un anno ha detto no, ma noi non entriamo dentro questa questione, è una vicenda del Parlamento, e invece una legge che tra l'altro è una legge, un disegno di legge di iniziativa popolare, che parte con un'iniziativa legislativa popolare, poi il testo è stato accorpato insieme ad altre proposte legislative parlamentari. È raro che questo avvenga, no? Che un testo di iniziativa legislativa popolare arrivi addirittura ad essere votato da una delle due Camere. Intendo dire che almeno 50.000 elettori hanno sottoscritto un articolato normativo presentandole alle Camere e chiedendo alle commissioni competenti di discuterle e poi al Parlamento di approvarlo. Rara avis nella storia costituzionale del nostro paese, eppure questo DDL che adesso si trova al Senato parte da un'iniziativa legislativa popolare. E se sentiamo poi anche l'articolarsi di questo dibattito, penso innanzitutto alle affermazioni di partiti politici come la Lega Lombarda. Salvini un po' di tempo fa scriveva su Twitter: la cittadinanza italiana non si regala, la cittadinanza italiana si merita, cosa su cui io devo confessare sono d'accordo, fermo restando però che poi la domanda successiva è: che cosa ha fatto Salvini per meritarsi la cittadinanza italiana? Essere nato da genitori con la cittadinanza italiana non è un merito, forse l'unico merito è aver militato per 20 anni in un partito politico che chiedeva l'indipendenza della Padania dall'Italia, il cui segretario ad ogni piè sospinto in discussioni pubbliche dichiarava che lui col tricolore ci si puliva quel che ci si puliva, anche questo è ius culturae, evidentemente. E infine Angelino Alfano, il quale dichiara alla festa dell'unità, lapsus, alla festa del Partito Democratico che la legge è una buona legge, è una giusta legge, ma che vorrebbe essere approvata in un momento sbagliato. Gli italiani non ci capirebbero. Ora, al di là di questo ragionamento, come dire, dal punto di vista della logica giuridica mi sembra impeccabile, la mia impressione è che gli italiani non capiscono come sia possibile che Angelino Alfano sia stato per 5 anni ministro prima degli interni e poi degli esteri di questo paese, ma è uno dei misteri della politica contemporanea italiana che molto probabilmente fra un secolo o più gli storici ci sveleranno. Questo è il contesto assolutamente schizofrenico dal punto di vista politico in cui si discute di ius soli. E quindi la mia impressione è che, al di là del mero dato politico della discussione politica, è opportuno andare a vedere che cosa dice questo disegno di legge già approvato alla Camera il 13 ottobre del 2015. In realtà questo disegno di legge non è una legge rivoluzionaria, fa ben poco, fa il minimo indispensabile, fa una sorta di manutenzione legislativa di quella che è l'attuale normativa sulla cittadinanza, la legge numero 91 del 1992. Lo ius soli già esiste in questo paese. Per residenza, 10 anni di residenza consentono agli extracomunitari di chiedere la cittadinanza, 5 anni di residenza continuata, poi vedremo, per i rifugiati politici, 4 per i cittadini comunitari, secondo me c'è anche una discriminazione alla rovescia nel testo del DDL, poi proverò a focalizzarmi su questo punto. 3 anni per i discendenti di cittadini italiani per nascita sino al secondo grado, i nonni. E quindi, paradosso, no? Chi sta qui da 10 anni, è nato in Italia, ha problemi a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, ma i nostri parenti che sono in Argentina e che magari non vengono in Italia da decenni e forse non parlano neppure italiano, se sono per un periodo di tempo inferiore a quello di tutti quanti gli altri, 3 anni, residenti continuati nel nostro paese, possono ottenere la cittadinanza. Per chi è nato in Italia e al compimento del 18° anno di età lo richiede, avendo risieduto legalmente senza interruzioni, è possibile appunto il riconoscimento, la naturalizzazione e quindi il riconoscimento della cittadinanza italiana, se fanno questa richiesta entro un anno dal compimento del 18° anno di età. E qui è rimasto, diciamo, il segno del ministro Chienge, quando appunto, quando divenne ministro, avrebbe dovuto lei modificare la legge sulla cittadinanza, non ci riuscì. L'unica cosa che fu in grado di fare politicamente fu appunto in qualche modo formalizzare una sorta di inversione dell'onere della prova. Siccome ignoranza legis non excusat, la maggior parte di questi ragazzi, arrivati al 19° anno di età, neppure sapevano di poter chiedere la cittadinanza e quindi decadevano da questa, diciamo così, facoltà che gli veniva riconosciuta dall'ordinamento. Il ministro Chienge ha stabilito l'inversione dell'onere della prova, cioè se il comune di residenza in cui abitualmente risiede o è domiciliato la persona interessata non comunica al momento del compimento di 18 anni di età questa facoltà che il ragazzo ha, si ritiene, diciamo, sospeso l'esercizio di questa facoltà fin quanto questo onere della prova, questa comunicazione non viene data dal comune. Questo è allo stato degli atti. In realtà, prima di parlare del DDL, bisogna evidenziare un punto su cui anche col professor Ferraioli negli ultimi mesi abbiamo dialogato molto, cioè i decreti Minniti, che decreti Minniti pessimi e incostituzionali sotto molteplici punti di vista, ne abbiamo già parlato qui in fondazione a fine giugno, ma il primo decreto Minniti, ormai diventato legge, che modifica la materia dell'immigrazione, ha posto in essere, ovviamente in maniera inconsapevole, perché la consapevolezza del nostro legislatore e dei nostri politici lascia molto a desiderare, ma inconsapevolmente ha fatto una riforma epocale che, come si suol dire, cancella, distrugge infiniti scaffali delle biblioteche giuridiche. Cioè ha affermato che la giurisdizione in materia di cittadinanza non è più del giudice amministrativo, ma del giudice ordinario, in particolar modo delle sezioni specializzate in immigrazione. E questo, diciamo così, distrugge un dibattito dottrinale secolare, oserei dire. Il riconoscimento, la concessione della cittadinanza è un atto di amplissima discrezionalità politica ministeriale, tant'è che in una certa fase storica si parlava anche di atto di alta amministrazione, quindi in quanto tale addirittura non impugnabile davanti alle giurisdizioni amministrative. In questo modo, diciamo, forse l'unico elemento positivo di quella riforma, per tutto il resto c'è molto da discutere, per la prima volta noi siamo di fronte a un passaggio di giurisdizione che è più garantista per la persona, perché, come è noto, chi un po' conosce le aule del Tribunale Amministrativo Regionale del Consiglio di Stato, queste sono le classiche situazioni in cui iscrivi l'azione adesso, ne riparliamo fra 5-6 anni, con tutto quello che consegue dal punto di vista poi dell'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana, perché i termini non sono quelli che in realtà dice la legge, ma nella prassi sono molto più lunghi. Che cosa dice quindi il disegno di legge? All'articolo 1 si aggiunge un ulteriore comma, all'articolo 1,1 della legge sulla cittadinanza, e si dice, ius soli temperato, chi è nato in Italia e ha uno dei due genitori in possesso del permesso di soggiorno per lungo soggiornante. Il permesso di soggiorno per lungo soggiornante si ottiene quando lo straniero è presente sul territorio da 5 anni, risiede legalmente, è entrato legalmente, ha un'abitazione idonea alloggiabile per sé e per la propria famiglia, dichiara un certo reddito che varia a seconda del numero dei componenti familiari, non ha pendenze o carichi penali. Chi è nato in Italia e uno dei due genitori ha il permesso di soggiorno del lungo periodo può, in ragione di una dichiarazione di volontà fatta evidentemente dal genitore entro i 18 anni o già al momento della nascita del bambino, può chiedere appunto che questo bambino a 18 anni faccia domanda di cittadinanza. Se non lo fa il genitore, lo può fare il ragazzo stesso al compimento dei 18 anni di età, e qui si modifica il periodo di cui vi parlavo prima, non è più un anno ma sono due gli anni di tempo per poter fare questa dichiarazione di volontà. E anche qui vale il principio dell'inversione dell'onere della prova rispetto alla pubblica amministrazione. Si dice vabbè, insomma, in Francia, dove vale lo stesso principio e valgono le stesse caratteristiche, non è che il soggetto manifesta una propria dichiarazione di volontà in modo tale che poi si valuta se ci sono i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza. La cittadinanza gli viene riconosciuta automaticamente e ha questo compito di riconoscimento automatico, non è competente soltanto l'ufficio dello Stato civile competente per territorio, ma addirittura la scuola che in cui il ragazzo sostanzialmente svolge il suo corso di studi. E questo per indicare appunto che in realtà anche qui, insomma, non è che questa sia una grande riforma che amplia tantissimo, come dire, i canali del riconoscimento della cittadinanza. È una procedura volta, come dire, con maggiore garantismo rispetto al passato, a consentire alle persone di manifestare la volontà di chiedere la cittadinanza. Poi che la si ottenga è tutt'altra questione, come vedremo. Il DDL poi introduce l'articolo 4, secondo comma, e 9, primo comma, della legge 91 del 92, il cosiddetto ius culturae. Se, prima ipotesi, il minore nato in Italia o che è entrato in Italia prima di 18 anni frequenta un corso di studi di 5 anni, un percorso professionale formativo riconosciuto dallo Stato di 3-4 anni, con esito positivo, anche qui può entro i 18 anni manifestare questa sua dichiarazione di volontà e si attiva il procedimento di riconoscimento eventuale. L'articolo 9, primo comma, invece prevede che in caso di ingresso in Italia prima dei 18 anni, quindi ipotesi più lasca, se il minorenne è stato legalmente residente da almeno 6 anni, ha frequentato un ciclo scolastico con riconoscimento di titolo finale o un percorso professionale di 3-4 anni riconosciuto dallo Stato, anche qui si apre nuovamente questo canale di possibile, diciamo, canale agevolato di riconoscimento della cittadinanza italiana. L'articolo 23 bis viene aggiunto, quindi il DDL aggiunge un ulteriore articolo, l'articolo 23 bis, che è un articolo interpretativo, diciamo così, in quanto stabilisce una serie, come interpretare alcune parole di questa modifica legislativa. La minore età viene considerata al momento dell'istanza o della richiesta del singolo o della richiesta del genitore. Regolarmente significa che la persona è entrata nel territorio italiano nel rispetto del testo unico delle leggi sull'immigrazione, in particolar modo le regole sull'ingresso e il soggiorno, che il periodo di residenza legale viene computato dalla data del rilascio del primo permesso di soggiorno. Ora, questa cosa della residenza legale continuata, che per noi autoctoni è una cosa quasi banale, su cui io invece continuamente ritorno, è perché in realtà per gli stranieri così non è. Cioè, una delle ipotesi di diniego della cittadinanza consiste nel fatto che nei periodi di residenza degli stranieri ci sono dei buchi, cioè ci sono delle cancellazioni dall'anagrafe. E questa è una delle prime cause di esclusione del riconoscimento della cittadinanza per gli stranieri. Tant'è che da questo punto di vista il DDL consente allo straniero di provare, come si dice in altro modo, agli unde, comunque la sua presenza sul territorio, anche se un determinato comune lo ha sostanzialmente cancellato dalla propria anagrafe. E quindi, come dire, l'iscrizione scolastica piuttosto che la presentazione di una serie di documentazioni fatte nel comune nel periodo in cui c'era questo buco anagrafico e quant'altro. Prima era molto difficile superare, diciamo, questa presunzione di sfavore nei confronti dello straniero. Adesso sembrerebbe più semplice. Inoltre si considera continuata anche quella presenza in Italia nonostante lo straniero sia stato per un periodo non superiore a 90 giorni entro l'anno all'estero, oppure non si considera continuata la presenza sul territorio se lo straniero è stato per oltre 6 mesi consecutivi fuori dal territorio italiano. Anche qui ci sono delle cause di giustificazione: la prima, gravi e comprovati motivi di salute; la seconda, ha dovuto adempiere il proprio servizio militare all'estero. L'articolo 23 ter viene aggiunto dal DDL con una clausola che ormai sta diventando di stile da parte del nostro legislatore, cioè che questa riforma viene fatta senza costi aggiuntivi per lo Stato, e questo, come dire, crea una serie di problemi, perché se poi noi dobbiamo integrare, non è che possiamo integrare a zero euro. Infine, l'articolo 3 della riforma stabilisce una disposizione transitoria per il periodo, diciamo, per tutti coloro che sono che compiono 18 anni, che si ritrovano ad aver compiuto dai 18 ai 20 anni nel periodo in cui la legge entra o entrerebbe in vigore. È sostanzialmente una norma che produce effetti retroattivi e quindi una norma di garanzia e di favore. Cosa c'è che va e che cosa c'è che non va? Come sempre il diavolo è nei dettagli. Il legislatore si è dimenticato di una cosa, cioè che il procedimento amministrativo in questo paese è un procedimento amministrativo che ha tempi tendenzialmente molto stretti. Tu vai alla pubblica amministrazione, di solito hai 90 giorni di tempo, poi c'è un regolamento attuativo della legge 241 del 90 che ti dice la durata dei procedimenti amministrativi. 180 giorni è, ad esempio, se non mi sbaglio, il riconoscimento dei titoli degli stranieri all'estero, perché c'è tutta una procedura che passa per il Ministero degli Affari Esteri, e questo ha un senso perché ovviamente c'è tutto un tempo di invio, di autenticazione, di vidimazione dei documenti ai fini del riconoscimento di un diploma o di una laurea in Italia. Questo ha un senso, ha una ratio. Il procedimento quindi l'istruttoria che il Ministero degli Interni fa sulle domande di cittadinanza dura 730 giorni per legge, e il Ministero degli Interni, che dà un'interpretazione evidentemente garantista, ti fa sapere l'esito di questa istruttoria al 730 giorno. Ci mancherebbe, mica lo facciamo prima, altro che efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione. Ma arrivati allo scadere del secondo anno, che cosa fa il Ministero dell'Interno? Dice: beh, caro mio, è vero che tu, quando mi hai presentato 2 anni fa ormai le carte per la richiesta di cittadinanza, avevi tutte le carte in regola, però questo procedimento è durato 2 anni. Adesso, articolo 10 bis, comunicazione allo straniero, tu mi riproduci ancora i documenti che attestano il tuo reddito, che c'è ancora una casa e quant'altro, perché io devo sapere se in questi 2 anni tu questi requisiti li hai ancora mantenuti, li possiedi ancora oppure no, l'attualità dei requisiti. Ora, anche questo può sembrare una banalità, ma non lo è. In un periodo di crisi economica in cui il lavoro non c'è per gli italiani, non c'è neanche per gli stranieri, e quindi spesso quei 2 anni in qualche modo rischiano di essere esiziali ai fini della valutazione della domanda, anche perché psicologicamente uno sta più tranquillo e invece dopo 2 anni si ritrova, come dire, punto e da capo in questa fatica di Sisifo. La durata dei procedimenti amministrativi non è stata minimamente intaccata dalla riforma legislativa. Sulla dichiarazione di manifestazione di volontà mi sono già espresso. Come dicevamo, 0 euro per i processi di integrazione. Ah, un'altra cosa, si chiede anche il certificato del casellario penale. Ora, se io arrivo qui a 14, 15, 16 anni e chiedo la cittadinanza, il Ministero mi chiede il certificato del casellario penale del mio paese. E questo comporta una serie di ritardi, ancora una volta, per quanto riguarda il passaggio dei documenti e il riconoscimento dei documenti da parte delle ambasciate, e spesso le vidimazioni delle ambasciate all'estero durano un periodo di tempo limitato, mi sembra siano 6 mesi in taluni casi. E questo che cosa significa? Che tu ti ritrovi sostanzialmente a rifare la stessa domanda, i documenti non ti arrivano nei tempi necessari per la presentazione, il documento vidimato, validato dall'ambasciata scade e tu lo devi rifare, e ricominciamo di nuovo con la fatica di Sisifo. Dipende dall'ambasciata, dipende dallo Stato. Dipende dallo stato di origine dello straniero. Dipende, ad esempio, nello Sri Lanka non è così, per dirne una. Lei da dove viene? Ah, è diverso. L'Italia è il primo partner commerciale dell'Iran, ci sono dei canali diversi. Ok. Per quanto riguarda poi il diniego, una volta che c'è questo diniego, che può avvenire a questo punto a distanza anche di 3-4 anni dall'introduzione della domanda di asilo, e come vi dicevo prima, noi ci troviamo di fronte a giudici amministrativi che tardano significativamente a fissare l'udienza di discussione, delle varie cause, quindi dell'impugnazione e del diniego, e quindi di fatto i tempi si prolungano sensibilmente. Inoltre, la valutazione che viene fatta dal Ministero degli Interni in istruttoria resta sempre una valutazione fortemente discrezionale, e ciò che rileva sono anche una serie di elementi fattuali, spessi coperti dal segreto istruttorio, che non sono neppure accessibili dallo straniero. Vi faccio un esempio: io difendo un signore di Milano. Questo signore è un metalmeccanico, iscritto regolarmente alla FIOM CGIL, il quale è anche una persona, come dire... Non è un requisito. E questo è il punto, io l'ho detto proprio per questo motivo. E siccome lui, avendo, come si diceva un tempo, una certa coscienza di classe, lui studia anche le varie tecniche per migliorare, come dire, le proprie performance sul lavoro. E quindi compra tutta una serie di libri che gli indica anche il sindacato sostanzialmente sulle tecniche di produzione di assemblaggi e cose varie. Un giorno vanno a casa sua a fare un controllo e li trovano questi libri. Li trovano questi libri e dicono: ma tu lo sai che questi libri non li puoi tenere? Perché con questi libri tu fabbrichi le bombe. Lui è musulmano. E quindi lo fanno venire in questura. Molto probabilmente lo schedano, non so. Da quel giorno non succede nulla. Va a fare la richiesta di cittadinanza e gliela negano per motivi di sicurezza e di incolumità. Alla mia richiesta di accesso agli atti per capire qual è la valutazione che è stata fatta dalla prefettura competente, cioè perché quest'uomo è un pericolo per lo Stato, per la sicurezza e l'ordine pubblico dello Stato, mi si contesta il segreto di Stato, cioè mi si dice: non ti posso dare questi documenti perché c'è un segreto istruttorio. Ora, qual è la cosa divertente? La cosa divertente è che il giorno in cui lui ha fatto la richiesta di cittadinanza italiana l'ha fatta anche la moglie, solo che la moglie l'ha ottenuta e lui no. E c'è giurisprudenza costante del Consiglio di Stato che dice che se tu sei in famiglia con un terrorista, è chiaro che non è che al terrorista non gliela do, ma non la posso dare neanche a te. Questo per... purtroppo è anche, come dire, è l'approssimazione di taluni funzionari del Ministero dell'Interno. Non è, no, loro vanno contemporaneamente. E tra l'altro poi li riconoscono, non li riconoscono la cittadinanza, ma li riconoscono il permesso di soggiorno per lungo periodo, il quale è precluso per tutti coloro che sono un pericolo per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza. Questo per dire perché cosa? Che noi dobbiamo nuovamente ringraziare Angelino Alfano, perché c'è una circolare non scritta in base alla quale da 5 anni a questa parte il Ministero dell'Interno crea un muro di gomma per tutti coloro che chiedono la cittadinanza e sono di religione musulmana, mentre agevola fortemente tutti coloro che fanno richiesta di cittadinanza italiana e ad esempio sono cattolici oppure provengono da determinate aree dell'Africa che per tradizione coloniale sono più vicine al nostro paese, quindi eritrei, somali, etiopi, per cui per loro il riconoscimento della cittadinanza italiana va de blanco. Chiudo. Io credo questo, che credo sia importante ragionare anche in prospettiva. Noi non ci dobbiamo nascondere una serie di cose. Prima fra tutte il problema della paura. È un dato di fatto che quello che è accaduto in Francia è una cosa che fa riflettere. Il modello culturale e istituzionale francese è ben lontano da quello italiano. Tuttavia, molti degli atti di terrorismo che sono stati compiuti negli ultimi anni in Francia sono stati compiuti da cittadini francesi di seconda generazione. Tant'è che a un certo punto si è aperto un dibattito con Hollande se revocare la cittadinanza a queste persone e ai loro familiari. Non si è andati molto avanti, anche perché revoca della cittadinanza per queste persone significa cadere in uno status di apolidia, e sappiamo che il disconoscimento, la negazione della cittadinanza e la caduta nello status di apolide è stata una delle pagine peggiori di alcuni paesi occidentali a metà del secolo scorso, e quindi è stato questo, come dire, motivo simbolico a frenare i francesi. Tuttavia vi è anche una necessità, come dire, di integrare queste persone una volta che viene riconosciuta loro la cittadinanza. Parliamo di 700.000 cittadini stranieri che potrebbero vedersi riconoscere la cittadinanza se passasse questa legge. E quindi, come dire, non si possono ancora una volta fare delle riforme strutturali e di sistema senza in qualche modo investire sull'integrazione e investire innanzitutto sulla scuola, che consente, come dire, dovrebbe porre in essere i primi strumenti dell'integrazione a livello sociale. La questione, in conclusione, comunque resta una questione politica. Questa legge non è una legge progressista, non è una legge radicale, un disegno di legge radicale, è un disegno di legge che si limita moderatamente, democristianamente, a registrare l'esistente e a porre una serie di strumenti legislativi che facoltizzano la possibilità di ottenere un riconoscimento e agevolano una serie di procedure amministrative, tra l'altro non agevolandole neppure fino in fondo, come vi dicevo, che altrimenti determinerebbero ulteriori rallentamenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza e una serie anche di buchi, di limbi giuridici che ormai negli ultimi anni la magistratura sempre più è nei confronti dei quali la magistratura è sempre più costretta a confrontarsi. E registriamo, e davvero chiudo, in questa materia, forse insieme ad altre materie, in generale per quanto riguarda i diritti civili e politici in questo paese, una regressione evidente della cultura politica, in taluni casi anche giuridica. Noi abbiamo assistito in questo paese ancora una volta all'approvazione con la fiducia della legge sulle coppie di fatto, chiamiamole così. E, tra l'altro, porre la fiducia su una legge il cui contenuto etico è evidente significa in qualche modo, come dire, imporre una visione morale della società da parte del governo. Si è arrivati persino a questo. Io sono favorevole ovviamente a questa legge, che è comunque il minimo sindacale che si potesse ottenere, ma le modalità con cui è stata fatta non sono evidentemente democratiche. Ebbene, questa è la dimostrazione provata che la politica è debole questo paese, perché se si è fatta la legge elettorale con la fiducia, se si sono fatte le leggi per il riconoscimento delle coppie di fatto con la fiducia, semplicemente perché tutto questo determinava un profitto, un dividendo elettorale spendibile alla prossima tornata elettorale per l'appunto, è chiaro che qui la fiducia non viene neppure contemplata. Perché? Perché comunque, se passa questa legge, prima che queste persone votino ci vorrà un po' di tempo, e questo evidentemente alla politica non conviene. Grazie. Grazie all'avvocato Cervo anche per la ricchezza di dettagli e di informazioni che ci ha dato, evitando a molti di dover, come dire, sobbarcarsi alla lettura del testo. La parola a Luigi Ferraioli. Io credo che su questa questione della legge, al di là dei suoi limiti, si giochi l'identità democratica della Repubblica, cioè una questione molto di fondo. Questa legge non ha nulla a che fare con l'immigrazione, no? Questo viene ripetuto in continuazione, ma viene però di fatto ignorata, nel senso che l'opposizione a questa legge non si giustifica certamente con il pericolo, lo spauracchio dell'invasione, dell'aumento appunto di persone che concorrono con il lavoro degli italiani. Si spiega soltanto con l'opposizione alla, diciamo, al riconoscimento come cittadini per ragioni antropologiche. Diciamo le cose, chiamiamole con il loro nome, e cioè per ragioni razziste. Un'esclusione per ragioni dell'identità etnica, dell'identità religiosa. Insomma, queste persone sono nate in Italia, si sono formate in Italia, quindi sono italiani sotto tutti gli aspetti. L'unica ragione, quindi, è una ragione che ha a che fare con l'identità antropologica. Questo è un fatto di un'enorme gravità. E direi che anche dal punto di vista della sicurezza, qui il Cervo parlava della Francia, queste persone si sentono italiane perché sono sempre vissute in Italia, non sono sbarcate in Italia, e quindi hanno un senso di appartenenza assolutamente scontato. Ed è chiaro che nel momento in cui si pone la questione, e nel dibattito pubblico, al di là dei contenuti della legge, la questione diventa se riconoscere o meno queste persone come cittadini, il mancato riconoscimento genera inevitabilmente una reazione di rancore, di ingiusto disconoscimento. In Francia, sì, ci sono state le rivolte delle seconde generazioni per la ghettizzazione, diciamo, territoriale, perché queste persone vivono in periferie, in ghetti sociali. Da noi avremo una ghettizzazione giuridica che rischierà, rispetto anche al passato, quando la questione non era diventata una questione politica così evidente, di avere il sapore di un'esclusione, per l'appunto, per ragioni unicamente di identità etnica. Non mi piace usare la parola razziale, anche se esiste nella nostra Costituzione, per l'identità della razza, per l'identità della provenienza, per l'identità della nascita, non della nascita, la nascita in Italia, dei genitori. Allora qui noi abbiamo a che fare con una questione di fondo, che ha a che fare precisamente con l'identità della nostra democrazia. Le destre populiste, sovraniste, quelle schierate contro l'immigrazione, contro lo Ius Soli, continuamente a sostegno della loro campagna xenofoba agitano il pericolo della lesione dell'identità culturale, della nostra identità culturale. Beh, io direi che qui ci troviamo di fronte a un gigantesco dilemma. È vero, lo Ius Soli lede un'identità culturale, è l'identità culturale di chi si oppone a questa legge, è l'identità culturale xenofoba, è l'identità culturale razzista, è la falsa cristianità, l'intolleranza per i diversi. Ma la mancata approvazione di questa legge a questo punto lede l'identità democratica della Repubblica, di tutti noi, dell'Europa, dell'Italia, che è quella disegnata dalla Costituzione, dall'uguaglianza, dalla uguale dignità, pari dignità sociale delle persone, i diritti fondamentali. L'Italia, questo è un banco di prova, l'Europa, a seguito dei muri, dei fili spinati, delle politiche di espulsione, non è più l'Europa e l'Italia dei diritti, l'Italia la cui identità è disegnata dall'articolo 3, dall'articolo 1, dagli articoli fondamentali. Le carte costituzionali sono carte d'identità della Repubblica. E dunque noi rischiamo una perdita, un crollo di identità democratica, al di là della questione in sé, che è una questione di giustizia elementare, banale, che ha a che fare con la vita di centinaia di migliaia di persone, di ragazzi che nelle scuole vivono appunto in condizioni di uguaglianza. Ci sta l'educazione civica, si insegna la Costituzione italiana, però voi non lo siete per ragioni di nascita, e lo si dirà, perché finora il problema non era stato sollevato, lo si dirà. E quindi c'è una contraddizione anche nella formazione civica, civile delle persone. Ecco, io penso a questo punto che la questione dello Ius Soli, come tante altre questioni, stanno facendo emergere, esplodere in Italia, in Europa, la crisi del principio di uguaglianza. Non badate soltanto dell'uguaglianza qual è prevista dall'articolo 3 capoverso, questa è l'età dell'esplosione delle disuguaglianze economiche. Non c'è mai stata una disuguaglianza di queste proporzioni, no? Sempre le 8 persone più ricche del mondo hanno la stessa ricchezza della metà più povera, e cioè di 3 miliardi e 600 milioni di persone del pianeta. Non c'è soltanto questa disuguaglianza, che è un fattore inevitabile di tensioni, di guerre, di criminalità, di disgregazione sociale. sta esplodendo la questione dell'uguaglianza formale, quella prevista dall'articolo 3, primo comma, che stabilisce l'uguaglianza senza distinzione di sesso, di razza, espressione che dovrebbe essere cambiata, di nazionalità, di condizioni personali, di lingua, di religione. E viviamo in Europa un riemergere, un'esplosione dei nazionalismi, dei sovranismi. Stiamo ritornando agli anni in cui dei nazionalismi aggressivi, delle politiche di esclusione, dei noi contro gli altri, all'idea quindi non dell'uguale valore delle differenze, ma dell'esclusione e del disvalore delle differenze altre. E adesso tutti i conflitti identitari che si stanno sviluppando, religiosi, etnici, di lingua, nazionalità, eccetera, sono espressione di un'intolleranza, di un'incapacità di convivenza, di una lesione dell'articolo 3, primo comma. E l'Europa sta vivendo in molteplici forme la crisi dell'uguaglianza formale. Quello che sta succedendo in Catalogna è incredibile. Noi abbiamo parlato più volte del diritto all'autodeterminazione. Il diritto all'autodeterminazione è un diritto che è stato pensato in funzione della decolonizzazione. L'autodeterminazione si giustifica per quei popoli che sono oppressi, che sono per l'appunto oggetto di dominazioni straniere. Pensiamo al Risorgimento italiano, pensiamo all'Ottocento, ma pensiamo soprattutto alla decolonizzazione dopo il 45. I diritti dei popoli sono questi: il primo diritto è l'autodeterminazione, quindi il diritto alla democrazia, l'autodeterminazione. Ma dove c'è l'uguaglianza nei diritti? Pensiamo alla Catalogna, in tutti i diritti. L'autodeterminazione non ha senso, è soltanto diciamo l'opzione indipendentista, il sintomo, il segno di una volontà di escludere o comunque di non convivere con le differenze. E questo tipo di secessionismo, di nazionalismo, dà luogo a un conflitto identitario, tanto quanto è il suo principale alleato nel governo spagnolo, che risponde a questa richiesta di indipendenza, ingiustificata quanto si vuole, con la repressione, con l'indisponibilità al negoziato, che pensa di usare il diritto penale contro 2 milioni di persone. Stiamo scherzando con il fuoco. Il miglior alleato dell'indipendentismo è, in questo senso, Rajoy, a cui gli indipendentisti dovrebbero fare un monumento, perché evidentemente questo tipo di risposta, questo rifiuto del dialogo, questo conflitto identitario alimenta inevitabilmente l'identità, a conferma del fatto che l'autodeterminazione si giustifica soltanto ove sia repressa questa identità. Ed è un regalo che viene fatto all'ideologia indipendentista. Faccio un esempio per l'appunto come la Catalogna, perché poi ci sono quelli della Scozia, c'è il Quebec, c'è la nostra Padania. Sono tra l'altro secessionismi di regioni ricche, badate, che esprimono l'egoismo regionale. Non è che qui stiamo difendendo i diritti. Diritti, appunto, teniamoci il fisco e quindi il segno della mancanza di solidarietà. Direi quindi, per tornare alla questione dello Ius Soli, che è il segno, il sintomo di una crisi profonda dell'identità democratica e dello sviluppo, in assenza di identità collettive legate, pensiamo al movimento operaio, al movimento delle donne, alla difesa dei diritti, alla richiesta di uguaglianza, a soggettività perverse legate alla richiesta di esclusione di altri, noi italiani, loro stranieri. E tutto questo rischia di produrre tensioni insolubili, perché poi oltretutto sono tensioni che si moltiplicano, che si autoalimentano. Basta poco per farle degenerare. Abbiamo alle spalle la Jugoslavia, dove nessuno avrebbe pensato, soltanto un paio d'anni prima, che scoppiasse la guerra civile, che un solo sparo avrebbe potuto per paura generare. Abbiamo alle spalle due guerre mondiali all'insegna di nazionalismi. Abbiamo alle spalle, dobbiamo registrarlo, la questione palestinese, la questione che avrebbe dovuto essere risolta sulla base dell'uguaglianza, semplicemente dell'uguale tolleranza delle differenze. Oggi ovviamente per la Palestina è importante la costruzione di un proprio Stato, ma è una soluzione, per così dire, di ripiego rispetto a quella che avrebbe dovuto essere la soluzione della convivenza fra differenze. E quindi a me pare che la questione dello Ius Soli, come del resto quella dell'immigrazione, perché l'immigrazione, pur essendo una cosa completamente diversa, ha ugualmente a che fare, lo diceva Franco, con, diciamo, la non cittadinanza e quindi con la trasformazione della cittadinanza in un fattore di esclusione, nell'ultimo residuo, nell'ultimo status per nascita che differenzia le persone. E dunque su queste questioni a me pare che l'impegno per l'approvazione di questa legge, eccetera, va quasi al di là della stessa questione di fondo, pur essenziale, che consiste nell'integrare queste persone, nel riconoscerle, nel superare questa contraddizione tra il loro sentirsi e il loro trattamento anche nelle scuole come uguali, i cosiddetti valori, i principi appunto che gli vengono insegnati e la pratica di esclusione, di lesione dell'amor proprio, di lesione dell'identità, perché voi cosa siete? Siete apolidi, non siete neanche cittadini di un altro paese, non avete neanche la cittadinanza di chi è sbarcato qui da altri paesi, non siete niente. E quindi questo è una contraddizione insostenibile. Insomma, credo che su questa questione dovremmo organizzare una battaglia civile nelle forme più, diciamo, facendo un discorso di ragione, perché spesso la questione, basta sentirla trattata in televisione, viene per lo più male impostata, confusa con altre, ridicolizzata, ne parliamo un'altra volta, non è questo il momento. E tutto questo viceversa sta rischiando di mettere a rischio, appunto, sta mettendo a rischio la stessa nostra convivenza pacifica. Direi che, visto che l'argomento principale è quello della sicurezza, è proprio su questo terreno che rischiamo la massima insicurezza con l'esclusione di queste persone soltanto per la loro identità. Grazie Luigi, la parola al professor Enrico Pugliese. Sono purtroppo d'accordo con quello che appena ci ha detto Luigi Ferraioli, il che vuol dire che la situazione è davvero grave e che il compito principale è attrezzarsi a contrastarla. Tra l'altro, sia Franco che Antonello hanno prima individuato alcuni momenti di precipitazione della situazione con dei responsabili, con nome e cognome, insomma. Credo che le uscite di Alfano e successivamente il decreto Minniti, che ha implicitamente presentato gli immigrati nati, arrivati in una immagine pessima, sono riuscito a modificare drasticamente, e la cosa è documentata dai sondaggi, che portano la simpatia del paese per questa legge, non ho capito poi io che si chiama, che chiamiamo inopportunamente lo Ius Soli, poi apro una parentesi sui nomi, è scesa dal oltre il 60% al 40% nel paese. In genere su queste tematiche i paesi non sono molto benevoli e le élite sono generalmente più avanti del popolo. Furbamente la materia dell'immigrazione viene spesso nei paesi di storica immigrazione fatta passare con leggi velocissime senza troppa pubblicità, perché le forze opposte sono tante. Io sono ritenuto un esperto di immigrazione, sono invece soprattutto un esperto di emigrazione, e vengo invitato a destra e a sinistra al sindacato, e come si chiama, la gente vuole che io, i dirigenti vuole che io gli spieghi come e qualmente dobbiamo essere, con tutte le riserve, anche dalla parte degli immigrati, ai loro operai, agli operai che essi rappresentano, che sono generalmente molto irritati, molto anti-immigrati, tra l'altro, e dicono: vi mobilitate per loro e per noi no. La prima risposta, ma non la posso dare, che mi viene da dare, dice: mobilitiamoci bene per loro, per noi, e quindi poi dopo diventa meno antipatico il mobilitarsi anche per gli altri. Ma il problema è molto complesso, sta in questo mutare dell'umore del paese, con due momenti di precipitazione recentissimi che ci sono stati, attrezzarsi contro i quali è a mio avviso molto difficile. Cosa bisogna fare? Beh, innanzitutto bisogna scegliere. Io ho apprezzato molto la relazione coltissima di Antonello, e però vorrei una risposta a se è d'accordo o no a quanto sto per leggere, che la dichiarazione di Filippo Miraglia, storico responsabile immigrazione dell'Arci, quello che è stato sulla Capanamur, a Rosarno, che ha intenzionato tutte le manifestazioni, il quale mestamente, e io sono pienamente d'accordo con lui, scrive: i limiti sono pesanti, dice Filippo Miranda, vicepresidente dell'Arci e membro della campagna. La campagna è quella "L'Italia siamo anch'io", quindi se voi avete tempo, giovedì mattina la campagna ha chiamato a una presenza di massa davanti a Montecitorio alle 11. I limiti sono pesanti, ma non possiamo che salutare con soddisfazione un passo avanti nella civiltà giuridica, togliamo la parola giuridica se no mi dico subito, e della democrazia in questo paese, che cambierà, e questo non mi si può negare, la vita di migliaia di famiglie e persone, di tante bambini e bambini che in Italia sono stati a lungo discriminati per legge. Non abbiamo certo sconfitto il razzismo, ma abbiamo contribuito con questa legge, se viene approvata, a migliorare la democrazia. Ecco, io concordo con tutte le critiche che Antonello ha fatto, ma penso che la cosa più importante in questo momento è quella di lottare per l'approvazione subito di questa legge, che ha avuto molti nemici. L'ultima, quella più perfida, è stata quella della Boschi, che se n'è andata proprio con una cosa che prescinde completamente dalla politica, dall'ideologia e dalla morale: non abbiamo i numeri. C'era Sinistra Italiana, e Rifondazione sarebbe stata sicuramente Sinistra Italiana, che era disponibilissima a dare la fiducia di scopo alla legge qualora fosse stato necessario porre la fiducia. Quindi in pratica c'è una mancanza di volontà all'interno del partito democratico espresso da suoi esponenti, non dico di rilievo, ma senza dubbio potenti e anche i più cinici. Allora io chiedo a Antonello se dobbiamo in questo momento sottolineare le carenze oppure dire per ora, purtroppo io vado perorando sempre approvazioni di leggi che non mi piacciono, l'ultima è stata quella nota come legge contro il caporalato in realtà è stato un grandissimo successo approvarla, per la prima volta si riconosce la responsabilità dell'impresa, poi dopo sbagliano tutto perché mettono dentro il primo articolo l'impresa e il caporale come se avessero le stesse responsabilità, per cui dopo aver costruito questa immagine che non corrisponde alla realtà del criminale responsabile unico che sarebbe il capitale, mentre l'imprenditore pare che non c'entri niente, ora invece sono tutte e due responsabili, per cui come prima non si riusciva a perseguire il caporale, ora invece abbiamo stabilito il principio che sì. Però era importante approvare quella legge, quindi ora la priorità è il mobilitarsi per questa legge. Tra l'altro, come nasce questa legge e in che clima europeo stiamo? Il clima europeo politico morale, direi, è quello che ha descritto Luigi, non ci piove. Come sono andate le cose con lo Ius Soli? Mi sono andato documentando in giro e anche ho pensato cose vecchie che fanno parte della mia formazione di studioso anche e soprattutto dell'emigrazione. Allora, quali sono i paesi dove c'è lo parente sullo Ius Soli? Io faccio sempre la battaglia perché si parli in italiano, perché le cose diventano chiare. Noi abbiamo una legge che si chiama Jobs Act. Jobs Act è un'espressione che non può esistere in nessuna lingua. Nella lingua inglese, lo potete trovare su Wikipedia, che ci dedica parecchio spazio, non si sa, Labor Act magari, insomma. Ma però nella legge di Obama, Jobs è un acronimo e ha un nome lungo e banale, esattamente come è lungo e banale poi il vero nome della legge, ma sulla base dell'inglese che si parla a Rignano sull'Arno e che è esteso come malcostume, no, che riflette un malcostume di tutto il nostro paese, ecco. Ora, nei confronti del latino io ho un rispetto maggiore che nei confronti dell'inglese, però se parlassimo in italiano e che quindi se dicesse per nascita, la gente capirebbe di più. Per esempio, abbiamo sentito una persona che onestamente, immoralmente, non intendo citare, disse, perché io gli voglio bene, insomma, credo che mi rappresenti bene nelle istituzioni, disse che con lo Ius Soli migliaia e migliaia di africani sarebbero venuti a partorire in Italia. Ecco, quindi. Allora, comunque si può parlare. E poi, finché si parlasse solo di quel, poi i termini fuoriscono. Allora, ius culturae, ma che vuol dire ius culturae? Che hai fatto un periodo di scolarizzazione in Italia? Sì, nella legge c'è scritto. Chiamiamolo, però si può dire diritto di accesso alla cittadinanza dei nuovi italiani. E in questo modo definisce il fatto che, siccome noi abbiamo l'obbligo scolastico per tutti, hai caratterizzato in maniera, nella lingua italiana e in maniera socialmente, non sociologicamente, più chiara questa seconda categoria. Io leggo il presidente della Fondazione Agnelli che dice più che ius culture bisognerebbe dire ius scuole, ma parliamo in italiano e riferiamoci a soggetti sociali, perché sono loro in piazza, sono i ragazzi di G2 che sono venuti in questa sala a parlare, a raccontare la loro esperienza di essere italiani senza il diritto di essere. Torno invece, chiudo la parentesi e torno a che cosa bolle in pentola in Europa. In Europa la situazione peggiora dappertutto. In Francia è peggiorata già da 20 anni. Antonello, non credo che l'attuale... In Francia si è fatto un gravissimo passo indietro, perché in Francia tu l'avevi punto e basta. Ora invece al 18° anno di età hai la verifica, e se non stai attento, e dei ragazzini delle banlieue a volte sono sciamannati, come i nostri ragazzini soprattutto, insomma, e quella è l'età, insomma, possono mancare l'obiettivo della ratifica, che mi sembra particolarmente importante. Non c'era bisogno in Francia, è stato introdotto. L'unico paese è la Germania. La Germania l'aveva fatta grossa, ma non col nazismo, l'aveva fatta grossa pur nella Costituzione di Weimar, col Deutsche Bevölkerung, cioè il diritto di sangue, no? Se proprio ius sanguinis, per chi non parla italiano. Allora, in Germania c'è stata questa congiuntura favorevole rosso-verde, grazie ai verdi, di modificare, ma era anche una situazione paradossale. Gli arrivavano dei russi, coi capelli a spazzola, con la faccia un po' triangolare, come il mio amico Antonio Gramsci, figlio di un figlio di Gramsci, che, come dire, non sapevano una parola di tedesco, non sapevano nulla della Germania, però erano i Volga Deutsche, e quindi erano quelli che nel 700, Pietro il Grande, li aveva chiamati, stanno lì, e avevano diritto alla cittadinanza. Mentre invece gli italiani, che c'erano stati da anni e i cui genitori che erano nati in Germania, non avevano questo diritto. Quindi, detto questo, però, quindi in pratica le cose, insomma, in Italia noi ci metteremmo grosso modo a livello europeo, dove abbiamo degli arretramenti come in Germania, degli arretramenti come in Francia, degli avanzamenti come in Germania. Comunque, a mio avviso, è una grande novità da difendere, con tutte le critiche che Antonella ha fatto. Quindi su questo io sono assolutamente d'accordo. Da dove nasce sta legge? Mentre studiavo per prepararmi, leggo che lo ius soli in Italia esiste già lo ius soli. E allora vado a leggermi la, come dire, vituperata legge del 92, e vedete chi ci ha lo ius. Allora, ha il diritto alla cittadinanza per nascita, quindi quello che viene chiamato ius soli, al punto B, chi è nato nel territorio della Repubblica, il primo che ha diritto, chi ha il padre e la madre cittadino italiano, insomma, questo mi sembra un po' ovvio, però chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi. Ecco, noi avevamo già in senso stretto questo diritto per nascita, questo cosiddetto ius soli, per questa categoria di persone. Sulla base di questa legge si soggette tutte quelle cose che riguardano gli italiani all'estero, e qui c'è un punto di dissenso con Franco prima, concordo con un'obiezione che mi si appaggia, c'è stato poi l'intervento di Tremaglia che l'ha fatta grossa, però c'è un problema sul diritto di trasmissione della cittadinanza, perché la cittadinanza si può acquisire, perdere, trasmette o riacquistare. Acquisire. Il 12 luglio 1968 io stavo in America, stavo in un ospedale, mia moglie, peraltro tedesca, partoriva una bambina, mia figlia. La prima cosa che ho fatto è stato chiamare mio padre, era pomeriggio e lui non è potuto correre all'anagrafe di Castrovillari a registrare la bambina, ci è andata la mattina presto alle 8:15. Quindi, in realtà, la trasmissione della cittadinanza è una cosa importante, non è solo all'epoca in cui, all'epoca delle leggi cui tu facevi riferimento di inizio secolo scorso, in realtà qualcosa per cui il paese voleva mantenere il controllo sui suoi cittadini, ma era anche un diritto che i cittadini di un paese che le persone di un paese nate all'estero e figli, per esempio, di italiani, volevano tenere per sé. Questo poi si accoppia a diverse alternative di cittadinanza, perché è che la cosa è molto importante per il voto degli italiani all'estero, anzi per il voto all'estero degli italiani, perché gli italiani residenti non una persona in più con la legge sul voto ha diritto di votare rispetto a prima, sia chiaro, la legge non si deve chiamare la legge del voto per gli italiani all'estero, ma la legge riguardante le modalità del voto dei cittadini italiani residenti all'estero, perché su questo si è fatta una confusione enorme e voglio specificare questo fatto. Noi abbiamo una legge che fissa le aree territoriali. Ormai, come sapete, il problema di quali sono le circoscrizioni è un problema importantissimo. A livello estero noi abbiamo un'unica circoscrizione. Allora, un paese come l'Argentina, che ha teoricamente 700 e passa mila italiani, cioè quindi più di quanti ne sono in Germania, in realtà non è che ha non è che queste persone hanno una potenzialità di voto, anche se votassero tutti quelli con la doppia cittadinanza corrispondente alla dimensione numerica, ma manco per niente. C'è la circoscrizione America Latina che ha diritto a un X senatori, quindi non ci invaderanno mai. Vediamo poi perché abbiamo vinto. La legge sulla cittadinanza all'estero, che passa per il nome Tremaglia, ma chi l'ha presentata per prima è stata una onorevole del Partito Comunista Italiano, Franca Prisca, ad ogni buon conto non si dimentichi, perché poi dopo ci siamo dimenticati di questa legge, di questa legge. In realtà la legge la legge sugli italiani all'estero fissa queste circoscrizioni per cui il numero di persone elette all'estero non può superare tanto. Perché noi abbiamo vinto? Se avessimo perso, perché poi le cose sono andate bene anche nel 2008, se avessimo perso sarebbe stata la stessa cosa, perché si trattava per cittadini italiani che non hanno rinunciato alla loro residenza, alla loro cittadinanza, e quelli che hanno votato, per esempio in Europa, quali sono stati? Sono stati quelli strettamente legati all'Italia, siano essi legati perché nei comitati tricolori fascisti, sia perché, ringraziando la Madonna, soprattutto legati alle ACLI, alla CGIL, al Partito Comunista, quel poco che era rimasto, e al Partito Socialista. Perciò abbiamo vinto le elezioni del 2006. Noi abbiamo dato la possibilità ai proletari italiani emigrati, ancora collegati alle associazioni, la possibilità di realizzare, senza un viaggio in aereo o senza un viaggio in treno seconda classe pagato ridotto del 70%, perché questa era la norma, gli abbiamo dato la possibilità di, come si fa in ogni paese civile, Capo Verde, Olanda e Stati Uniti d'America, di votare per corrispondenza. Poi, non lo so, anche in Francia, anche in Germania, fino anche in Austria, insomma, poi, anche con la speranza che anche lì, diciamo, rivoltassero i risultati, ma non è successa quella splendida notte del 2006 che abbiamo vissuto noi lì, grazie ai proletari italiani collegati alle associazioni residenti all'estero, che possono esprimere complessivamente un numero predeterminato di... Questo lo dicevo sostanzialmente perché è un tema al quale io tengo moltissimo e col quale vado litigando in giro, insomma, non tra i compagni, perché poi dopo i fascisti ovviamente sono d'accordo con me, insomma. Quindi questo è il problema, è grave da questo punto di vista. Vabbè, io avrei altre cose da dire, ma secondo me ho abusato molto del vostro tempo. Vorrei aggiungere, vabbè, credo che è bene che mi fermi qua e poi se ci sono domande, insomma, posso rispondere. Volevo forse solo ricordare una lezione di Ferraioli su come sociologi e giuristi intendono diversamente la cittadinanza, noi, come dire, ci riferiamo molto di più alla tradizione marshalliana, quindi noi i diritti, come dire, i diritti sociali di cittadinanza sono i diritti collegati alle politiche sociali, alle prestazioni sociali, al welfare, insomma, e la battaglia è stata sempre per una, come dire, cittadinanza post-nazionale da questo punto di vista, di allargamento progressivo dei diritti anche ai non cittadini. Però guardate una cosa che è interessante, che quando si restringono le politiche di welfare, come si restrinsero istituzionalmente sotto Clinton nel 96, è schizzato in alto il numero delle richieste di cittadinanza, quando cioè i primi a pagare la riduzione dei benefici, così nel 96, che è stato l'anno di svolta, hanno votato, hanno fatto richiesta di cittadinanza il triplo degli stranieri residenti negli Stati Uniti rispetto ai 3 anni precedenti e ai 3 anni successivi. Quindi, diciamo, noi siamo per la estensione della cittadinanza in senso giuridico, però siamo anche per l'estensione dei diritti agli stranieri residenti, siano essi capaci di diventare cittadini, sia che essi si trovino nella condizione, per scelta o per necessità, di residenti, e basta. Grazie. Ringrazio Enrico Pugliese, che conosco da una vita e a cui voglio bene da sempre. Se avessi immaginato che gli scatenavo una reazione emotiva con il riferimento all'italiano all'estero, l'avrei detto magari più chiaramente. Ciò che mi premeva mettere in rilievo, al di là dell'eventuale dissenso nel merito, è il paradosso di far votare persone il cui legame con l'Italia quantomeno può essere dubbio, la relativizzo così, e negare il diritto di voto, ma anche i diritti collegati alla cittadinanza, e vengo invece alla seconda parte su cui sono totalmente d'accordo con Enrico, a gente che vive qui da decenni e che di fatto deve votare perché ci dovrebbe. Ecco. Ritornando invece all'apparente diversa concezione della cittadinanza fra giuristi e sociologi, quantomeno a questo tavolo non c'è questa differenza, perché io, che ho letto tutto ciò che ha scritto Ferraioli su questo tema, non a caso i riferimenti a Marshall sono piuttosto frequenti, perché qual è il problema che noi abbiamo? Che cittadinanza e diritti di welfare nascono in momenti diversi, ma nascono come categoria di inclusione e di estensione sotto il profilo dell'eguaglianza alle persone che vivono in un certo ordinamento, in una certa comunità. E il termine cittadinanza in italiano è unico e indica due cose: in inglese, in francese e anche in Germania sono due i termini per indicare la partecipazione ai diritti e per indicare la identificazione giuridica con una certa comunità. Ora, poiché noi abbiamo un unico termine, dobbiamo sforzarci proprio per far capire ai cittadini che in realtà oggi stiamo non correndo il rischio, ma si sta realizzando una progressiva deriva per cui sia la categoria della cittadinanza, sia la categoria dei diritti sociali, che in forza dell'articolo 2 e 3 della Costituzione più volte la Corte Costituzionale ha detto che vanno estesi a tutte le persone in quanto tale, come persone, indipendentemente dalla cittadinanza, sono oggi fortemente a rischio, perché se si litiga, quando facevo l'esempio del cittadino di Pietralata che teme che l'immigrato gli rubi la casa, che poi è una cosa di cronaca di 15 giorni fa che è successa sta cosa, è che sui temi e della cittadinanza e dei diritti di welfare stiamo pericolosamente imboccando una strada che è lontana mille miglia da quelle originarie, per cui ha ragione Ferraioli, ed era l'incipit del mio discorso, il problema non è tanto e solo i diritti di tutte le persone, quindi dei cosiddetti altri. Il problema è che su questi temi siamo noi che stiamo cambiando faccia, stiamo cambiando natura, noi cittadini di una comunità costituzionale che ha una certa identità e, come dice Luigi, sta andando in frantumi nella coscienza collettiva, ma soprattutto nella strumentalizzazione politica che se ne fa. Detto questo, per chiarire perché continuo a voler bene a Enrico Pugliese, li vorrò sempre, ovviamente ci sarà qualche... Prego. Sono troppi punti che bisogna parlare, forse molto lungo. Comunque io parlo della mia esperienza in questa fondazione dagli anni, diciamo, almeno una quarantina d'anni. Abbiamo fatto molti passaggi, però io devo parlare con molto rammarico della sinistra italiana, molto rammarico perché, no, l'ho dato indietro le mie tessere, comunque io ho dato indietro, comincio di qua, scoprendo tutto, quando proprio la Lega dei Conte, Lega del Bossi, ha accettato la consulta e ha consultato con noi, e ha proposto Giancarlo Paglierini del riconoscimento del genocidio. Grazie a Luciano Violante abbiamo aggiunto una firma, se no non passava. Però il Senato italiano, sinistra, non ha voluto riconoscere il genocidio armeno. Perciò siamo Parlamento con gli armeni, il Senato con i turchi. Questa è la sintesi della politica. Poi è arrivata la consegna di Ocalan. Consegna di Ocalan, leso spirito dall'articolo 10 della Costituzione italiana, che tuttora non è legge. Martella lo ha previsto, è stato depennato nel 92 con governo Lamberto Dini e Bossi. Perciò questo è un altro passaggio di progressismo italiano, sinistra, eccetera, eccetera, di cui ci facciamo differenza chi è fascista, chi è antifascista. Non è così. Poi le consulte. Le consulte è una grande conquista del movimento. Nostri maestri, diciamo, di cui abbiamo dato una valenza in democrazia italiana. Vedere fare le consulte, fare tutto, arriva la sinistra, Walter Veltroni, questo o quell'altro, che cancellano tutto. Non c'è interlocuzione fra chi aveva anche il diritto in questo paese. Tasse, voto, cittadinanza, tutte le mani, abbiamo in tutte le salse di Stato. Se non abbiamo il diritto di discutere anche sugli ossoli, dire la nostra, che non è possibile, non c'è una sede, perché la sinistra diceva quando c'è pentapartito voi andate in piazza contro, perché se no, se allineate con loro, voterete a loro quando approveranno i vostri diritti. Ma quando la sinistra sta al potere sa quello che volete voi, proletariato. Cioè era una specie di paternalismo che voleva abituare noi come papponi, stare qua e non fare niente, cioè ci pensa il papà. Questo volevano insegnare. Non ci abbiamo portato. Certo, i nostri compagni ormai a una certa età, chi è morto, chi è partito, chi ha lasciato l'Italia, abbiamo visto sfasciare tutti i movimenti comunitari degli stranieri. Abbiamo trovato, grazie arrivando a 50 miliardi di contributi dopo la legge di Martelli, associazioni per gli stranieri. Ogni associazione del volontariato, del sindacato, eccetera, si trovava qualche straniero disponibile, di colpo che magari, perché così è più antirazzista, mi ficavano lì e mi sono trovato pure per prendere botte perché non avevo il diritto di parlare. Avevamo 114 associazioni, di cui 4 avevamo visto, tutto erano accamuffate di varie. Perciò se noi riusciamo a rasare questa cultura del paternalismo, di questo che sono io, le altre non esistono, faccio tutto io, qui non costruiamo nessuna sinistra, nessuna democrazia, è inutile critica Renzi sì, quell'altro no. Cioè non è questo, perché bisogna vedere in basso che cosa succede in basso. Non straniero che come le tartarughe spiaggia italiana, avranno il diritto pure loro, ma se i miei diritti sono lesi, che sono anche cittadino italiano, non ho diritto all'espressione, oltre voto. Io ormai cancello il voto, cioè vado a votare perché ho il diritto io esercitare anche avere un'espressione di negativo. È un'espressione anche questo di democrazia. Ma se non ho il diritto di organizzarmi, parlare, eccetera, eccetera, io non so in quale democrazia viviamo, se soltanto ius solis veramente diventa, come dice Boldrinova, che qui diventa antiterrorismo, anti questo, anti se passa questa legge. Non è così, non inganniamo la gente. Non è questo il punto reale. E non è stato discusso nemmeno a voi. Noi dice, ma che cosa pensate? Voi volete? Perciò io mi riferisco alla mia cittadinanza, che è stato, io avevo anche la moglie italiana. Mia moglie non è diventata straniera, però non riuscivo a riacquisire la sua cittadinanza italiana. Io ero già diventato italiano, ho due certificati, moglie ex italiana, marito attuale italiano, che il giudice rideva. Cioè in Italia tutto è possibile, perché anagraficamente io ho le fotocopie, che da anni è diventato straniero. Perciò prescindere il folklore, era tutto possibile. Possibile, abbiamo conquistato noi con le nostre mani, i nostri diritti, i nostri limiti. Però la sinistra ci ha cancellato tutto. Ecco perché io ho dato le mie risposte. Grazie a Thank you. Anni fa circa nacque questa esperienza da Bologna a Milano di discutere tra giudici e avvocati sulle prassi di gestione dei processi civili, che è un argomento non solo tecnico ma con grandi poi valenze, diciamo, sostanziali. E da questa esperienza sono nati protocolli per come sentire, per esempio, il minore del processo, eccetera. Questo lavoro oramai si è realizzato in tutte le sedi d'Italia, ha creato appunto questa associazione, che non è proprio un'associazione, è qualcosa di non formalizzato, sono osservatori civili, e che adesso si è, sta interessando a questo tema dei nuovi cittadini, o meglio, come diceva Franco, delle persone che sono in Italia, ormai sono tante, e che hanno degli impatti con la giurisdizione, non solo negativi, diciamo repressivi, ma anche proprio di richiesta di diritti. Quindi si è costituito questo gruppo di lavoro su questi temi, sulle differenze anche culturali e anche su questo tema della cittadinanza. Quindi organizzeremo un convegno. In questo gruppo di lavoro la novità, diciamo, metodologica è che abbiamo accolto e richiesto la presenza di figure non solo legate al processo civile, come avvocati, giudici, funzionari, ma anche antropologi, filosofi, sociologi. Questa una delle, diciamo, degli obiettivi di questo gruppo è quello di fare un convegno possibilmente dopo le elezioni, diciamo, quindi riflessivo su questo tema della cittadinanza. Quindi io sto facendo questo intervento per stimolare chi è interessato a venire. Noi faremo una riunione il 23 novembre organizzativa di questo convegno alla sala dell'ANM della Cassazione. Ma eventualmente potete mandarmi, diciamo, attraverso il gruppo Franco, la Fondazione Bassa, la manifestazione di interesse, così vi aggiorniamo. Ok, scusate dello spot. No, grazie a te. Allora, facciamo una breve giro conclusivo. Professor Pugliese, se hai da fare qualche ulteriore osservazione. No, Luigi Ferraioli. No, nulla, mi è stata ricordata questa questione della cittadinanza e la diversa configurazione dei diritti fondamentali in Marshall. La critica, secondo me, che va mossa a Marshall, che è bioccatura di muovere, è che questa dicotomia uomo-cittadino, che espressa dalla dichiarazione del 1789, diritti dell'uomo e del cittadino, che ha a che fare con la lunga tradizione dello ius civitatis e dello ius persona, il diritto dello status civitatis, scusa, dello status persona, come gli status a cui sono collegati i diritti, è a mio parere una formulazione regressiva dei diritti, in quanto assume la cittadinanza come un presupposto dei diritti, quando invece nella nostra Costituzione, ma anche in generale nella nostra tradizione, sono i diritti vanno attribuiti alla persona al di là della sua cittadinanza. Naturalmente Marshall era un sociologo, quindi non è che maneggiasse le categorie giuridiche, quindi presentava come diritti di cittadinanza i diritti sociali, ma i diritti sociali sono precisamente i diritti che nella nostra Costituzione sono quasi tutti attribuiti alla persona. Al cittadino sono attribuiti i diritti, il diritto di voto, ma mentre il diritto alla salute, il diritto all'istruzione sono diritti della persona. È chiaro che nel momento in cui, per quel che riguarda gli immigrati, il diritto di ingresso è un presupposto dell'esistenza come persone, e nel momento stesso in cui si solleva la questione dell'identità personale, quindi dell'identità di cittadino come identità, diciamo, di appartenente alla comunità nazionale, diventa una forma di razzismo, bisogna usare questo termine, l'esclusione dalla cittadinanza. La comunità nazionale è fondata unicamente sull'uguaglianza dei diritti fondamentali, no? L'espressione di Cicerone: non esiste nessuna unità, non esiste nessun demos, non esiste nessun popolo, non esiste nessun macrosoggetto, e l'unico fattore di unità e l'unica unità che merita di essere perseguita è quello che lui chiamava iura paria, la par condicio, in latinette, civium, cioè l'uguaglianza nei diritti. Questa è una questione di civiltà su cui, cioè, è chiaro che la cittadinanza a questo punto diventa una questione di identità nazionale, ancor prima dell'identità dei bambini, della nostra identità. Nel momento stesso in cui viene posta e in cui viene esclusa la cittadinanza di persone solo per il colore della pelle, per quali altre ragioni, diventa negata la nostra città, la nostra identità, appunto, democratica, fondata sull'uguaglianza. Però dobbiamo contemporaneamente sostenere che la cittadinanza è un residuo premoderno a questo punto di status, una condizione di status che o va negata o va generalizzata a tutti. Però questo, vabbè, è un discorso di carattere teorico, tanto per precisare. Però per dire che stiamo discutendo non semplicemente di un beneficio da accordare, ma di una, diciamo, affermazione o lesione della nostra stessa identità. Una cosa tra l'altro che mi pare che dicesse anche Franco nella sua introduzione: non è soltanto l'identità degli altri, ma quanto di noi. Noi chi siamo, cos'è l'Italia, cos'è la Repubblica, cos'è l'Europa. Da una sconfitta su questo terreno segue un mutamento dell'identità italiana, dell'identità nazionale, dell'identità europea. Questa cosa tra l'altro anche Minniti, perché Minniti è stato tanto esaltato, ma ha fatto un discorso molto simile a quello che fanno i leghisti, eccetera, quando dice la nostra identità viene lesa, perché quando dice è una questione di tensione di democrazia che ho voluto affrontare, perché ho visto in pericolo diciamo la tenuta democratica. Di fatto ha confessato qual è la ragione di queste misure, e cioè riflettere la xenofobia dominante e in un certo senso assecondarla e legittimarla. Questo è stato il discorso che ha fatto Minniti, cioè al di là della sicurezza doveva riflettere il senso comune xenofobo e quindi in un certo senso riconoscerlo e legittimarlo. Sì, io veramente vado per spot e rapidissimamente. I tedeschi, quando hanno modificato la loro legge sulla cittadinanza, voi sapete che i tedeschi hanno una parola per tutto, hanno chiamato quella legge, e mi faccio quindi al discorso di Enrico Pugliese, Staatsangehörigkeitsgesetz, che letteralmente Staatsangehörigkeit significa cittadinanza, evidentemente legge sulla cittadinanza, ma in tedesco Angehören significa radicare, essere legato a qualcosa, quindi letteralmente legge sul radicamento allo Stato, e quindi, come dire, un po' evapora questa dicotomia da ius sanguinis e ius soli. C'è un certo, come dire, buonismo proprio di una certa cultura giuridica tedesca, però effettivamente questa riformulazione del nomen iuris, se vogliamo dire così, della rubrica, è significativo. E sono d'accordo, l'introduzione della verifica culturale in Francia, io propongo, non lo farò qui perché ovviamente qui sono convinto che tutti quanti noi supereremo questo test, ma provate a chiedere a vostri amici, parenti, persone, anche una laurea in giurisprudenza, che si interessano di politica, il nome, il cognome delle cinque più alte cariche della Repubblica per ordine di importanza sulla base del testo della nostra Costituzione. Io lo faccio sempre con i miei studenti all'inizio del corso di diritto costituzionale e poi lo faccio anche alla fine. Gli esiti purtroppo sono disastrosi e noi vogliamo porre la questione della verifica culturale per gli stranieri quando in realtà appunto non siamo in Francia. Non tutti sanno chi è, come si chiama il presidente della Corte Costituzionale. Professor Ferraioli giustamente ricordava la questione della Catalogna. Io che faccio il costituzionalista, ma ho anche un approccio materialistico storico, c'è niente da fare, voglio dire, sì, è vero, stavamo tutti quanti lì a vedere i baschi e poi alla fine sono usciti i catalani. Però il costituzionalismo moderno nasce così: no taxation without representation. Quindi io sarei, come dire, sono meno disincantato rispetto a questo tipo di dinamiche, nel senso che il costituzionalismo americano è stato Washington, sì, ma prima di Washington c'era Thoreau. C'è una forte dimensione economica nella lotta per i diritti che secondo me noi tendiamo, non dico ovviamente il professor Ferraioli, a trascurare. Voglio dire, ecco, io invece penso che non dobbiamo trascurarla, perché ad esempio io credo che il problema della questione della cittadinanza per gli stranieri è anche una questione economica, nel senso che, ancora una volta farò un po' il materialista storico, a me la pensione non me la paga nessuno, signori miei, l'INPS è in saldo attivo soltanto perché è attivo la gestione separata, cioè i precari, e perché gli stranieri danno più di quello che ricevono. Questo ce lo dice Boeri, né più e né meno. È chiaro che quando tu dai di più di quello che prendi, il movimento operaio ce lo insegna, le cose devono cambiare e possibilmente devono cambiare secondo un processo democratico. E arrivo all'ultima questione per rispondere a Enrico Pugliese e a Filippo Miraglia. A Filippo io l'ho già detto, però lo dico anche a Enrico Pugliese, visto che ci troviamo. Io penso, parto da me, che ci sia in questo paese una sudditanza della cultura giuridica e politica della sinistra italiana alla destra in materia di immigrazione che fa spavento, e che noi, e che io che mi sento un giurista di sinistra, mi rendo conto a volte di avere anche introiettato inconsapevolmente. Ma in questo paese, ma chi le ha fatte le sanatorie degli stranieri a centinaia di migliaia? No, è una cosa ottima. Io infatti sto facendo un discorso politico, non sto facendo un discorso tecnico. poi dico Maroni, no, chiudo, no, chiudo. Ecco, l'emergenza Nord Africa di Maroni. Cioè c'è stato un momento, è vero che è un momento storico adesso, ma c'è stato un momento storico in questo paese in cui un ministro degli interni della Lega ha detto: se questi arrivano perché ci stanno i conflitti civili al loro paese, emergenza Nord Africa, noi li accogliamo tutti, gli diamo un permesso per motivi umanitari, tutti, fino a questa data noi li accogliamo tutti. Questo l'ha fatto un ministro dell'interno leghista, e io ho l'impressione che ci sia una sudditanza. In realtà non c'è una sudditanza, e torno alla questione che è stata posta dal nostro amico, c'è anche un certo paternalismo da parte della sinistra. Io lo direi meglio che la sinistra, quando arriva al governo, Minniti da ultimo, anche se non è di sinistra, poi in realtà non fa altro che mantenere uno status quo minimo rispetto a delle questioni, immigrazione e lavoro per tutti, e poi addirittura rincorrere, adesso si dicono i populismi, le peggiori cose che fa la destra. E arrivo alla questione, alle parole di Filippo Miraglia lette da Enrico Pugliese. Io sono assolutamente convinto che questa legge sia un buon passo in avanti, sempre meglio che niente, e quindi, cadendo nel tecnicismo, forse non ho dato un giudizio politico generale, io mi auguro che questa legge venga approvata. Dopodiché io dico a Enrico Pugliese, come ho già detto a Filippo Miraglia, le stesse identiche parole. Noi possiamo organizzare, io ero dentro quel percorso, manifestazioni antirazziste per dare un segnale affinché la società civile si svegli, batta un colpo rispetto a tutto quello che sta accadendo. Ma dopo una serie di fatti molto gravi, penso ai fatti di via Curtatone a Roma, che non sono degni di un paese civile, io penso che le classiche manifestazioni politiche antirazziste della società civile non bastino più. C'è bisogno di uno scatto di qualità politico che ancora una volta, e quindi tutto si tiene con la legge dello Ius Soli, una questione di rappresentanza politica. Noi non possiamo continuare in questo modo cercando il meno peggio, perché mano a mano che andiamo avanti, e lo vediamo con Minniti, a poco il livello culturale e giuridico e politico di queste questioni tende a essere sempre più degradato. C'è la necessità di una risposta politica e di un'organizzazione politica rispetto a questi temi, che non si può limitare a organizzare manifestazioni sociali pure importantissime, che non si può limitare a organizzare convegni di giuristi, sociologi pure importantissimi, ma che serve a imporre un'agenda politica e quindi giuridica che consenta di, come diceva quello, di invertire la rotta, ma di invertirla davvero. Concludo.